Assicuratevi che dovunque son stato le donne a truppe a schiere correvan disperate, il compiendo a mirar nel mio bel volto di grazia, di valor insieme accolto. Oh, bravo il mio contino, mi piace il vostro brio. Son cavaliere di spirito, son stato in guerra viva, ho espugnato fortezze. Eppur dal viso amabile della mia cara Arminda son fatto prigioniero. Qui vi volando, veni apposta corrente, ho lasciato per lei tutti i miei feudi. Le cariche, i vassalli, il marchese mio padre, la duchessa mia nonna e tanti cugini titolari. Voi vedete, capperà, non sapete chi siano i miei parenti, vivi, morti e nascenti. Udite, udite, vi darò in abbrecce qualche contezza della mia nobiltà. Di mia grandezza.